Dover scegliere tra quelle due alternative era per Maggie davvero opprimente. Tom, disse, passando dall'orgoglio alla preghiera, non chiedermi questo. Ti prometterò di rinunziare ad ogni relazione con Philip, se mi concedi di vederlo ancora una volta, o solamente di scrivergli spiegandogli tutto. Ti prometto di rinunciare, finché questo potrà cagionare della pena al babbo. Anche per Philip io sento qualcosa, egli non è felice. Non voglio saper nulla dei tuoi sentimenti, ti ho detto esattamente quello che esigo. Scegli, e presto, perché la mamma può rientrare. Se ti do la mia parola, sarà per me un vincolo altrettanto forte quanto il mettere la mano sulla Bibbia. Io non ho bisogno di questo per impegnarmi. Fa ciò che ti chiedo, disse Tom. Non posso fidarmi di te, Maggie, tu non hai costanza. Metti la mano sulla Bibbia e di' rinunzio ad ogni conversazione e relazione segreta con Philip Wakem a partire da oggi, se non vuoi travolgere tutti noi nell'onta e il babbo nel dolore. A che serve che io mi affatichi e mi privi di tutto per pagare i debiti di mio padre, se poi tu lo getti nella collera e negli affanni, proprio quando potrebbe tornare ad essere tranquillo e a rialzare la testa? Oh, Tom, i debiti saranno pagati presto? Disse Maggie, stringendosi le mani con una gioia che lampeggiò subitanea attraverso la sua stretta. Se le cose si mettono come spero, disse Tom. Ma, soggiunse, la sua voce tremava di sdegno, mentre io mi sforzavo e lavoravo perché mio padre potesse mettersi un poco l'anima in pace prima di morire, mentre io lavoravo per l'onore della nostra famiglia, tu hai fatto il possibile per distruggere tutto. Maggie sentì un empito profondo di rimorso. Per un momento il suo spirito cessò di lottare contro ciò che le pareva crudele e assurdo, e nella sua contrizione dava ragione al fratello. Tom, gli disse sottovoce. Ho avuto torto, ma ero così sola e provavo tanta pena per Philip, e credo che l'inimicizia e l'odio siano cose cattive. Che sciocchezza, disse Tom. Il tuo dovere era ben chiaro, non aggiungere altro. Prometti e con le parole che ti ho dette. Debbo parlare con Philip ancora una volta. Verrai ora con me e gli parlerai. Ti do la mia parola che non lo incontrerò né gli scriverò mai più a tua insaputa. Questa è la sola cosa che gli voglio dire. Metterò la mano sulla Bibbia se vuoi. Dillo dunque. Maggie posò la mano sulla pagina manoscritta e ripeté la promessa. Tom chiuse il libro e disse: E ora, andiamo. Non una parola fu detta mentre camminavano. Maggie si anticipava alla sofferenza per ciò che Philip avrebbe sofferto. E temeva le parole scottanti che sarebbero sfuggite contro di lui dalle labbra di Tom, ma sentiva che non c'era altro da fare che sottomettersi. Tom aveva una terribile presa sulla coscienza di lei e le incuteva un profondo timore. Ella gemeva sotto la verità lampante della condanna con cui egli aveva stigmatizzato la sua condotta, e nondimeno tutta la sua anima si ribellava contro questa condanna, ingiusta perché incompleta. Tom, frattanto, sentiva volgersi contro Philip l'impeto del proprio sdegno. Non sapeva quanta parte di una vecchia antipatia infantile, d'un puro e semplice orgoglio e animosità personali, si mescolasse nella amara severità delle parole con cui intendeva di compiere il proprio dovere di figlio e di fratello. Non era portato a indagare sottilmente sui propri motivi. Non più che su altre materie, di qualità evanescente. Era perfettamente certo che tanto i propri motivi quanto le proprie azioni erano buoni, se no egli non avrebbe saputo che farsene. La sola speranza di Maggie era che per la prima volta qualcosa potesse aver impedito a Philip di venire. Ci sarebbe stata così una dilazione ed ella avrebbe potuto ottenere da Tom il permesso di scrivergli. Il suo cuore batteva con raddoppiata violenza allorché entrarono sotto i pini di Scozia. Era l'ultimo momento di incertezza. Ella pensava, Philip soleva sempre incontrarla non appena ella aveva varcato quei pini. Ma oltrepassarono la più aperta distesa verde ed entrarono nello stretto sentiero cespuglioso presso la collina. Un'altra svolta si trovarono di fronte a lui, così vicini che Tom e Philip si fermarono d'improvviso a meno di un passo l'uno dall'altro. Ci fu un minuto di silenzio durante il quale Philip lanciò uno sguardo interrogativo verso il volto di Maggie e trovò risposta nelle pallide labbra semiaperte e nella sgomenta fissità dei grandi occhi. e come la sua immaginazione sempre correva follemente di là dall'impressione del momento. Ella già vedeva il suo grande e forte fratello in atto di afferrar per il collo il debole Philip e di abbatterlo e di metterselo sotto i piedi. Un simile modo d'agire. Voi lo chiamate da uomo e da gentiluomo, signore? Disse Tom con voce di duro disprezzo, non appena gli occhi di Philip tornarono a volgersi verso di lui. Che intendete di dire? Rispose Philip con alterigia. Cosa intendo? Tenetevi lontano da me che non vi metta le mani addosso e non vi faccia capire ciò che intendo. Intendo che avete speculato sulla semplicità e sull'ignoranza di una fanciulla per indurla ad avere con voi dei convegni segreti. Intendo di dire che avete osato di scherzare con la rispettabilità di una famiglia che ha da mantenere un buon nome e un nome onorato. Lo nego, interruppe Philip impetuosamente. Non scherzerai mai con nulla di ciò che riguarda la felicità di vostra sorella. Ella mi è più cara di quanto sia a voi. La onoro più di quanto voi possiate mai onorarla. Darei la mia vita per lei. Ah, non mi venite a dire queste arroganti assurdità, signore. Volete forse pretendere che non sapevate quale pregiudizio le avrebbe recato l'incontrarvi qui ogni settimana? Pretendete d'aver avuto qualche diritto di farle delle dichiarazioni d'amore quando anche foste stato un marito adatto per lei, dal momento che né suo padre né il vostro consentirebbero mai ad un matrimonio fra voi due? E voi? Voi tentate di insinuarvi negli affetti di una graziosa ragazza che non ha ancora 18 anni ed è stata esclusa dal mondo per le disgrazie di suo padre. E questa è la vostra storpia concezione dell'onore, non è vero? Per me questa è bassa perfidia e sfruttare le circostanze per raggiungere ciò che è troppo bello per voi, ciò che voi non potreste mai ottenere con mezzi chiari. Bel coraggio da parte vostra di parlarmi a questo modo, disse Filippa amaramente con tutta la persona scossa da una violenta emozione. I giganti hanno un memorabile diritto alla stoltezza e all'insolenza. Voi non siete neppure capace di comprendere ciò che io sento per vostra sorella. Provo per lei dei sentimenti così profondi che potrei perfino desiderare di essere amico con voi. Oh, sarei molto spiacente di comprendere i vostri sentimenti, disse Tom con un disprezzo scottante. Ciò che voglio è che voi comprendiate me e comprendiate che a mia sorella ci penserò io. E se voi oserete di fare il minimo tentativo d'avvicinarla o di scriverle o di serbare la più lieve influenza su di lei, il vostro meschino, miserabile corpo, che pure dovrebbe ispirarvi qualche modestia, non riuscirà a proteggervi. Vi umilierò, vi esporrò al pubblico scherno. Chi non riderà all'idea che un uomo come voi si sia innamorato di una bella figliola. Tom, io non posso reggere a questo, non ti posso più sentire, gridò Maggie con voce convulsa. Restate qui, Maggie, disse Philip facendo un violento sforzo per parlare. Poi, volgendosi a Tom, voi avete trascinato qui vostra sorella, credo, perché mi vedesse minacciato e insultato da voi. Questi naturalmente vi paiono i mezzi più adeguati per agire su di me, ma vi siete sbagliato. Lasciate parlare vostra sorella. Se dirà di essersi impegnata a lasciarmi, io accetterò al più lieve cenno i suoi desideri. È stato per amore di mio padre, Philip, disse Maggie implorando. Tom minaccia di parlare al babbo ed egli non potrebbe sopportarlo. Ho promesso, ho fatto voto solenne che noi non avremo più alcuna relazione all'insaputa di mio fratello. Questo basta, Maggie. Io per parte mia non muterò. Ma desidero che voi vi serbiate interamente libera. Credetemi, peraltro, e tenete a mente che io non cercherò mai se non il bene delle persone che vi stanno a cuore. Sì, disse Tom, esasperato da questo atteggiamento di Philip. Adesso voi potete dire di andare cercando il bene di lei e di chi le sta vicino, ma prima l'avete cercato, questo bene? Sì, e con qualche rischio, forse. Ma desideravo che ella avesse per la vita un amico che la circondasse di tenerezza, che le rendesse giustizia meglio di un fratello rude e limitato per il quale ella ha sempre sprecato il proprio affetto. Sì, il mio modo di volerle bene è differente dal vostro, e vi dirò io qual è. Io le impedirò di disobbedire a suo padre e di disonorarlo. Le impedirò di buttarsi via per voi, di diventare oggetto di riso, di essere lo zimbello di un uomo come vostro padre, con la scusa che ella non vale abbastanza per suo figlio. Voi sapete abbastanza bene che specie di giustizia e di tenerezza stavate preparandole. Io non mi lascio imbonire dalle belle parole, so capire che cosa significano i fatti. Vieni via, Maggie. Mentre parlava, afferrò il polso destro di Maggie, la quale invece tese la mano sinistra. Philip gliela strinse per un attimo con un'occhiata ardente, poi si allontanò in fretta. Tom e Maggie fecero qualche passo in silenzio. Egli le teneva ancora al polso destro, come se trascinasse via un colpevole dal luogo del delitto, e finalmente Maggie, con uno strappo violento, liberò la mano e la sua irritazione repressa ed accumulata si dette uno sfogo. Non credere che io ti dia ragione, Tom, o che mi pieghi al tuo volere. Io disprezzo i sentimenti che hai mostrato parlando a Philip, detesto quelle vigliacche allusioni alla sua deformità. Tu hai biasimato gli altri durante tutta la tua vita, sicuro sempre di avere ragione, e questo perché non hai la mente abbastanza larga per capire che c'è qualche cosa di meglio che la tua condotta e le tue meschine aspirazioni. Certamente, disse Tom con freddezza, non riesco ad accorgermi che la tua condotta sia migliore, e nemmeno le tue aspirazioni. Se il tuo contegno, nonché quello di Philip Wakem, è tanto buono, perché vi vergognavate che fosse conosciuto? Rispondimi. Io so a che cosa miravo col mio modo d'agire, e ci sono riuscito, ma il tuo, di grazia, che vantaggio ha procurato a te o ad altri? Io non voglio difendermi, disse Maggie ancora con veemenza. So d'aver avuto torto, spesso, continuamente, e tuttavia, se a volte ho sbagliato, è stato perché ho dei sentimenti che, se li avessi tu pure, sarebbe meglio per te. Se tu fossi mai in fallo, se tu avessi commesso qualcosa di sbagliato, io sarei dolente per la pena che ti recherebbe. Non vorrei ne ricadesse su di te la punizione. Ma tu hai sempre goduto di punirmi. Sei sempre stato duro e crudele con me, anche quando ero una bambina e ti amavo più che chiunque altro al mondo. Tu lasciavi che me ne andassi a letto piangendo e non mi perdonavi. Tu non hai pietà, non hai il senso delle tue imperfezioni e dei tuoi peccati. Ed è il peccato l'essere aspro. Non s'addice a un mortale, a un cristiano. Tu non sei che un fariseo. Non ringrazi Dio che per le tue virtù e le credi abbastanza grandi per procurarti qualunque cosa. Cosa? Non sai neppure immaginare i sentimenti di fronte ai quali le tue splendide virtù non sono che tenebra. Bene, disse Tom con freddo disprezzo, se i tuoi sentimenti sono tanto migliori dei miei, mostrameli in qualche altro modo, e non con una condotta che rischia di disonorarci tutti, non con ridicoli slanci, prima verso un estremo e poi verso l'altro. Come hai manifestato, dimmi, quell'amore per me e per il babbo di cui vai parlando? Disobbedendoci, ingannandoci, io ho un'altra maniera di mostrare i miei affetti. Perché sei un uomo, Tom, e hai la facoltà, il potere di fare qualche cosa a questo mondo. Ebbene, se tu non puoi far nulla, sottomettiti a coloro che possono. Certo che mi sottometterò a quello che riconosco e sento come giusto, e anche a quello che è ragionevole mi sottometterò da parte del babbo, ma non da parte tua. Tu ti vanti delle tue virtù, quasi che ti avessero dato il diritto di essere crudele e vile come sei stato quest'oggi? Non credere che io rinuncerei a Philip Wakem per obbedire a te. La deformità che tu insulti non farebbe che attaccarmi maggiormente a lui, non farebbe che suscitarmi verso di lui un interesse tanto maggiore. Molto bene. Questo è il tuo punto di vista, disse Tom più freddo che mai. Non è necessario che tu aggiunga altro per mostrarmi l'enorme distanza che ci separa. Ricordiamocene per il futuro e non aggiungiamo altro. Tom ritornò a St. Oaks per trovarsi ad un appuntamento con lo zio Dean e ricevere istruzioni circa un viaggio che doveva intraprendere la mattina seguente. Maggie salì nella propria camera per sfogare in lacrime amare tutte quelle sdegnate rimostranze a cui lo spirito di Tom era completamente chiuso. Poi, passata la prima crisi di quella collera insoddisfatta, la riassalse il ricordo dei giorni calmi, avanti che il piacere terminatosi nell'odierna tristezza avesse turbato la semplicità della sua vita. In quei tempi soleva pensare d'aver raggiunte delle grandi conquiste ed aver espugnata una ferma posizione su serene altezze, al di sopra delle tentazioni e dei capricci mondani. Ed eccola di nuovo nel tumulto di una calda lotta contro le proprie e le altrui passioni. La vita non era dunque così breve, né il perfetto riposo così vicino come ella s'era sognata quando aveva 2 anni di meno. Maggiori lotte le sovrastavano ancora, forse maggiori cadute. Se avesse sentito di avere interamente ragione, le sarebbe più presto riuscito di recuperare un poco di intima armonia, ma adesso il suo pentirsi e la sua obbedienza sarebbero stati senza tregua inceppati da un risentimento che a lei sarebbe parso di giusta indignazione. Il cuore le sanguinava per Philip, riandava agli insulti che gli erano stati gettati in viso con un senso così vivo di quanto egli avesse dovuto soffrirne, che quasi era per lei come un aspro dolore fisico, e le faceva picchiare i piedi sul pavimento e cacciarsi le unghie dentro le palme. E come mai aveva tuttavia coscienza, a quando, di un certo confuso fondo di sollievo in questa forzata separazione da Philip? Senza dubbio soltanto perché il senso d'essere liberata da una dissimulazione era, malgrado tutto, il benvenuto. 6. Il trionfo duramente conquistato. 3 settimane dopo, allorché il mulino di Dorlcote era nel più bel momento dell'annata, i grandi castagni in fiore, le folte erbe stellate di margherite, Tom Tulliver tornò a casa una sera più presto del solito e mentre passava sul ponte guardò col vecchio, tenace affetto la rispettabile casa di mattoni rossi, che dall'esterno pareva sempre ancora gaia e invitante, quantunque all'interno le camere fossero tanto vuote e i cuori quanto mai tristi. Negli occhi grigio-azzurri di Tom, mentre guarda verso le finestre della casa, c'è una luce davvero ridente. Quella ruga non dispare mai dalla sua fronte, ma non gli disdice, sembra indicare una forza di volontà che può non essere durezza. Tanto è vero che gli occhi e la bocca hanno la loro più amabile espressione. Il suo passo fermo si fa più rapido e gli angoli della bocca si ribellano contro la disciplina che vorrebbe proibire un sorriso. Dal salotto, in quel momento, nessun occhio era rivolto verso il ponte e le persone là riunite stavano sedute in un silenzio senza speranza. Mister Tulliver, sul suo seggiolone, stanco di una lunga cavalcata, ruminava i suoi pensieri con uno sguardo consunto, fisso principalmente su Maggie, che era curva sul cucito mentre la madre preparava il tè. Tutti alzarono gli occhi con sorpresa allorché udirono il passo ben noto. «Ebbene, che c'è di nuovo, Tom?» disse il babbo, un po' più presto del solito. «Oh, non avevo più nulla da fare e allora sono venuto via. Va bene, mamma?» Tom andò verso la mamma e la baciò, segno per lui di umore insolitamente lieto. Nelle ultime 3 settimane aveva malappena scambiato uno sguardo o una parola con Maggie, ma il mutismo che di abitudine gli serbava in casa aveva fatto sì che i genitori non se ne accorgessero. «Babbo», disse Tom, quando ebbero finito di prendere il tè, «sai esattamente quanto denaro c'è nel bossolo di stagno?» «Solo 193 sterline», disse Mr. Tulliver. «Tu hai portato meno negli ultimi tempi. Ma ai giovanotti piace disporre a modo loro del proprio denaro. Io però, finché non sono stato maggiorenne, non ho mai fatto di testa mia.» Parlava con una punta di timido malcontento. «Sei proprio sicuro che sia quella la somma, babbo?» disse Tom. «Vorrei che ti prendessi la pena di portar giù il bossolo. Credo che forse hai commesso un errore.» «Oh, come avrei fatto a sbagliarmi?» disse il padre seccamente. «Li ho contati abbastanza spesso, ma se non vuoi credermi, posso portarli giù.» Quello di estrarre il bossolo di stagno e di contare il denaro era sempre un avvenimento che Mr. Tulliver amava nella sua triste vita. «Non uscire da questa stanza, mamma», disse Tom, vedendo che una volta andato di sopra il babbo e la stava per alzarsi. «E Maggie, non può uscire nemmeno lei?» disse Mrs. Tulliver. «Perché qualcuno bisogna che porti via il servizio.» «Faccia come crede», disse Tom con indifferenza. Fu una parola tagliente per Maggie. Le era balzato il cuore nella subita convinzione che Tom stava per dire al babbo che i debiti potevano essere pagati, e Tom La lasciava andar via, nel punto in cui tale notizia veniva annunziata. Ma portato di là il vassoio, tornò immediatamente. Il senso di un torto fattole personalmente non poteva prevalere in quel momento. Tom si accostò al padre presso l'angolo del tavolo quando il bossolo di stagno fu deposto ed aperto e la luce rossa della sera, incidendo su di loro, rendeva evidente la stanca, aspra tristezza negli occhi neri del babbo e la gioia repressa nel volto di quel suo magnifico figliuolo. La mamma e Maggie sedevano all'altra estremità della tavola, l'una con distratta pazienza, l'altra con palpitante aspettativa. Mister Tulliver contò il denaro, riordinandolo sulla tavola, e poi disse, guardando seccamente Tom, «Ecco qui, vedi che avevo passabilmente ragione?» Tacque, guardando il denaro con amaro scoraggiamento. «Ne mancano più di 300. Ci vorrà un bel pezzo prima che io possa risparmiarle. È stato un brutto affare aver perduto quelle 42 sterline col grano. Questo mondo è stato troppo difficile per me. Ci sono voluti 4 anni per mettere da parte questi. Sarà molto se fra altri 4 anni io non sarò sottoterra. Devo fare assegnamento su di te per pagare i creditori», continuò con voce tremante. «Se tu rimani della stessa idea, ora che stai per diventare maggiorenne, ma è molto probabile che prima d'allora tu mi porti a seppellire». Guardò Tom in faccia con un lamentoso desiderio di essere rassicurato. «No, babbo», disse Tom, parlando con energica decisione, sebbene anche nella sua voce si sentisse un tremito. «Vivrai abbastanza per vedere tutto pagato. Pagherai con le tue stesse mani». Il suo accento implicava qualche cosa di più che una pura speranza o una semplice risoluzione. Una lieve scossa elettrica parve attraversare Mr. Tulliver, che tenne gli occhi fissi su Tom con uno sguardo di viva interrogazione, mentre Maggie, incapace di contenersi, si slanciò verso il babbo e si inginocchiò davanti a lui. Tom rimase per un breve momento in silenzio prima di continuare. Parecchio tempo fa zio Glegg mi ha imprestato una piccola somma per fare dei commerci e questi sono andati come volevo. Ho 320 sterline alla banca. Non appena le ultime parole furono pronunciate, egli sentì intorno al collo le braccia della mamma che disse quasi piangendo: «Oh, ragazzo mio, lo sapevo che appena diventato uomo avresti rimesso tutte le cose a posto». Ma il padre rimase in silenzio. Il fiotto dell'emozione sopraffaceva in lui ogni possibilità di parlare. Tanto Tom quanto Maggie furono presi dalla paura che quella gioia improvvisa potesse essergli fatale, ma venne il benedetto sollievo delle lacrime. L'ampio petto si alzò, i muscoli del volto si distesero e quell'uomo, dai capelli grigi, ruppe in alti singhiozzi. L'accesso di pianto si calmò a poco ed egli tornò tranquillo, recuperò il suo respiro regolare. E finalmente alzò gli occhi sulla moglie e disse con voce dolce: «Bessie, ora devi venire ad abbracciarmi. Il ragazzo ti ha risarcita di tutto. Forse potrai rivedere ancora un po' di benessere». Ricevuto il bacio di lei e strettale per un minuto la mano, i suoi pensieri tornarono al denaro. «Vorrei che me l'avessi portato a vedere quel denaro, Tom», egli disse palpando le sovrane che erano sulla tavola. «Mi sarei sentito più sicuro». «Lo vedrai domani, babbo», disse Tom. «Zio Dian ha convocato per domani i creditori al Leon d'Oro e ordinato per loro un pranzo alle 2. Tanto zio Glegg quanto lui vi si troveranno. C'era l'annunzio sul Messenger di sabato». «Allora Wakem lo sa», disse Mr. Tulliver. I suoi occhi brillavano di una luce di trionfo. «Ah!» seguitò con uno strascicato suono gutturale, estraendo la tabacchiera, l'unico lusso che si era ancora permesso, e picchiandovi sopra un po' della sua antica aria di sfida. «Ora potrò togliermi di sotto il suo calcagno per quanto mi toccherà di lasciare il vecchio mulino. Credevo che avrei resistito qui fino alla morte. Non ce l'abbiamo in casa un bicchierino di qualcosa, no, Bessie?» «Sì», disse Mrs. Tulliver, estraendo il suo mazzo di chiavi molto assottigliato. «C'è un po' di acquavite che la sorella Dian mi aveva portato quando ero malata. Dammene allora, dammene. Mi sento un po' debole. Tom, figliuolo mio, disse con voce più forte, allorché ebbe preso un po' di acqua e grappa, tu farai loro un discorso, e io dirò loro che sei stato tu a mettere insieme la maggior parte del denaro. Vedranno finalmente che io sono onesto e che ho un figlio onesto. Ah, Wakem sarebbe ben felice di avere un figlio come il mio, un bel ragazzo diritto, invece di quella povera creatura storpia. Tu farai fortuna in questo mondo, ragazzo mio. Forse vedrai il giorno in cui Wakem e suo figlio saranno un gradino o due sotto di te. È molto probabile che tu riesca a entrare nell'azienda, come ci è riuscito zio Dian prima di te. Sei già sulla buona strada e allora non ci sarà nulla che ti impedirà di diventare ricco. E se mai lo diventi abbastanza, ricordati di questo. Fai in modo di riacquistare il vecchio mulino. Mr. Tulliver si sprofondò nella sua poltrona e il suo spirito, in cui per tanto tempo non erano albergati che scontento e presagi amari, d'improvviso si popolò per la magia della gioia, di visioni di buona fortuna. Ma qualche sottile influenza gli impediva di prevedere quella buona fortuna come destinata a lui. Tocchiamoci la mano, ragazzo mio, gli disse, porgendogli d'improvviso la mano. È una gran cosa quando un uomo può sentire di avere un buon figlio, e a me è toccata questa fortuna. In vita sua, Tom non gustò mai più un momento delizioso come quello, e Maggie stessa non poté fare a meno di dimenticare le proprie tristezze. Tom era buono, e nella dolce umiltà di cui tutti siamo pervasi durante le ore di sincera ammirazione e gratitudine, ella sentì che le colpe di cui egli la doveva perdonare, a differenza da quelle di lui, non erano state mai riscattate. Ne provò quella sera gelosia alcuna, quando per la prima volta le parve d'essere passata in seconda linea agli occhi di suo padre. Si fecero molti discorsi prima di andare a letto. Naturalmente, Mr. Tulliver volle sentire tutti i particolari delle avventure commerciali di Tom e ascoltava con crescente eccitazione e diletto. Era curioso di sapere quello che era stato detto nelle varie circostanze, possibilmente anche quello che era stato pensato. E la parte fatta da Bob Jakin negli affari gli provocò uno speciale slancio di simpatia per la felice ignoranza di quel notevole merciaiuolo. La storia della giovinezza di Bob, per quanto Mr. Tulliver ne aveva potuto sapere, fu rievocata con un senso di meraviglia per le promesse che essa racchiudeva, come sempre accade quando si rievoca l'infanzia dei grandi uomini. Fu un bene che ci fosse l'interesse per questi racconti a tenere in sordina il vago ma violento senso di trionfo su Wakem, che altrimenti avrebbe costituito la china per cui la gioia di Tulliver si sarebbe precipitata con pericolosa forza. Comunque, questo sentimento rivelava a quando e minacciosamente il suo profondo predominio attraverso subitanei sfoghi di incongrue esclamazioni. Quella notte ci volle molto tempo prima che Mr. Tulliver prendesse sonno, e il sonno, allorché venne, fu pieno di sogni allucinati. Alle 5:30 del mattino, quando già Mrs. Tulliver stava alzandosi, egli la spaventò levandosi sul letto con una specie di soffocato grido di allegrezza mentre guardava intorno a sé con aria stranita alle pareti della camera. «Che vi succede, Mr. Tulliver?» gli disse la moglie. Egli la guardò con un'espressione ancora stupita, poi finalmente disse: «Stavo sognando, ho fatto rumore, credevo di aver acciuffato quell'uomo». 7. Chiusura dei conti. Mr. Tulliver era un uomo essenzialmente sobrio, disposto a bersi il suo bicchiere e tutt'altro che malvolentieri, ma senza mai varcare i limiti della temperanza. Aveva avuto da natura un'indole violenta, a cui non occorreva quel fuoco liquido per infiammarsi. La sua violenza era sempre all'altezza di qualunque occasione provocatrice, anche senza rinforzi d'altro genere, sicché quel desiderio di acqua e grappa indicava soltanto che la gioia troppo improvvisa s'era abbattuta con pericoloso impeto su un corpo depresso da 4 anni di tristezza e di vita difficile, a cui non era avvezzo. Ma una volta passato quel primo momento di dubbiose incertezze, egli parve accresciuto di forza, con l'accrescersi dell'eccitamento, e il giorno dopo, quando si trovò seduto a tavola con i creditori, l'occhio acceso e le gote infocate per la coscienza di poter tornare a fare buona figura, somigliava molto più al fiero e fiducioso Tulliver dei tempi andati, ardente di cuore e di animo, di quanto sarebbe parso possibile a chi l'avesse incontrato solo una settimana prima, allorché se ne andava a cavallo, come aveva usato negli ultimi 4 anni, da quando era vissuto sotto l'oppressione del fallimento e dei debiti, col capo penzoloni, rispondendo con brevi sguardi svogliati a chi lo obbligasse ad accorgersi della propria presenza. Fece il suo discorso, ribadendo i suoi principi di onestà con la vecchia e confidente vivezza, alludendo alle canaglie e alla fortuna che gli aveva voltato le spalle, ma su cui aveva trionfato, fino a un certo punto, con duri sforzi e con l'aiuto di un bravo figlio, e concluse raccontando come Tom aveva messo insieme la maggior parte del denaro necessario. Ma l'empito di irritazione e di ostile trionfo parve un breve momento fondersi nella più pura fierezza e compiacenza paterna, allorché, essendo stato proposto un brindisi alla salute di Tom, e avendo zio Dean colto quell'occasione per pronunciare alcune parole di elogio sul carattere in genere e sulla condotta di lui, lo stesso Tom si alzò a pronunciare l'unico discorso della sua vita. Difficilmente sarebbe potuto riuscire più breve. Ringraziava quei signori dell'onore che gli avevano fatto, era felice di aver potuto aiutare suo padre a dare la prova della propria integrità e a riconquistarsi un nome onorato, e per parte sua sperava di non distruggere mai quell'opera, né infamare quel nome. Ma gli applausi che seguirono furono così nutriti e Tom apparve così signorile, nonché bello e diritto sulla persona, che Mr. Tulliver fece notare, a mo' di spiegazione ai suoi amici di destra e di sinistra, che aveva speso parecchio denaro per l'educazione del figlio. La riunione si sciolse molto frugalmente verso le 5. Tom rimase in St. Ogg's per attendere ad alcuni affari, e Mr. Tulliver montò a cavallo e tornò a casa a descrivere alla povera Bessie e alla piccina le cose memorabili che erano state dette e fatte. L'aria di esaltazione espressa dai suoi tratti dipendeva molto meno dai cibi saporiti o da qualche altro eccitante che dal potente vino di una gioia trionfale. Quel giorno egli non scelse strade traverse, ma cavalcò adagio, alta la testa e lo sguardo aperto lungo la strada principale che conduceva al ponte, perché non gli capitava di imbattersi in Wakem. Questo mancato incontro lo contrariava e gli mise addosso un irritato rovello. Forse quel giorno Wakem era andato fuori di città proprio per non vedere né sentire nulla di un atto onorato che poteva ben cagionargli qualche spiacevole rimorso. Se Wakem gli fosse capitato di fronte in quel momento, Mr. Tulliver l'avrebbe guardato diritto in viso, e forse quella canaglia si sarebbe sentita mancare un po' della sua fredda e spavalda impudenza. Avrebbe ben presto saputo che un uomo d'onore non era più disposto per tanto tempo a servirlo, né a prestare la propria onestà per impinguar delle tasche già rigurgitanti di guadagni disonesti. Forse la fortuna cominciava a mutar corso, forse il diavolo non aveva poi sempre in mano la carta migliore nel gioco di questo mondo. Con queste cose che gli ribollivano dentro, Mr. Tulliver si era avvicinato ai cancelli del mulino di Dorlcote, abbastanza dappresso per arrivare a scorgere una figura ben nota che ne usciva su di un bel cavallo bianco. Si incontrarono a una cinquantina di passi dal cancello tra i grandi castagni, gli olmi e l'argine alto. «Tulliver!» disse Wakem bruscamente, in un tono più altezzoso del solito. «Che bestialità avete fatto a mettere quelle zolle dure sul podere lontano? Ve l'ho detto quel che sarebbe successo, ma già, voi altri non imparerete mai a coltivare la terra con un po' di metodo.» «Oh!» disse Tulliver con un improvviso bollore. «Trovatevi qualcun altro che vi lavori la vostra terra, allora, qualcuno che venga a chiedervi i vostri consigli.» Avete bevuto, mi pare, disse Wakem, credendo veramente che fosse questo il significato di quella faccia accesa e di quegli occhi sfavillanti. No, non ho bevuto, disse Tulliver. Non ho bisogno di bere per prendere la decisione di non servire più sotto un lestofante. Benissimo. In questo caso potrete lasciare domani stesso le mie terre. Tenete a segno la vostra lingua insolente e lasciatemi passare. Tulliver aveva messo il suo cavallo attraverso la strada per fermare Wakem. No, non vi lascerò passare, disse Tulliver facendosi più furioso. Prima voglio dirvi ciò che penso di voi. Siete troppo furfante per essere impiccato. Siete. Lasciatemi la strada, villanzone ignorante, o vi passo addosso. Mister Tulliver si slanciò in avanti, spronando ed alzando il frustino, e il cavallo di Wakem, impennandosi e rinculando, buttò di sella il cavaliere sbalzandolo a terra di fianco. Wakem aveva avuto la presenza di spirito di abbandonare subito le briglie, e siccome il cavallo era rinculato solo di pochi passi e poi si era fermato, così egli avrebbe potuto rialzarsi e rimettersi in sella, senz'altro inconveniente che una contusione e una botta. Ma prima che gli si fosse rialzato, Tulliver era già sceso anche lui dal proprio cavallo. Al vedere a terra in suo potere quell'uomo prepotente così a lungo odiato, entrò in una frenesia di trionfante vendetta che parve dargli una forza e un'agilità sovrannaturali. Si precipitò su Wakem, che stava tentando di rimettersi in piedi, lo afferrò per il braccio sinistro e, in modo da farlo gravare con tutto il suo peso sul braccio destro, che era rimasto schiacciato a terra, lo picchiò violentemente sulla schiena col suo frustino. Wakem gridò aiuto, ma nessun aiuto venne, finché non si udì una voce di donna che urlava «Babbo! Babbo!». D'improvviso Wakem lo sentì. Qualche cosa aveva arrestato la mano di Mr. Tulliver, giacché le percosse erano cessate, e la stretta intorno al suo braccio si era allentata. «Togliti dai piedi!». «Via!» disse Tulliver rabbiosamente, ma non si rivolgeva a Wakem. Lentamente l'avvocato si alzò e, come volse il capo, vide che le braccia di Tulliver erano trattenute da una fanciulla, o piuttosto dalla paura di far del male a una fanciulla che gli si era attaccata con tutta la sua giovane forza. «Oh, Luke! Oh, mamma! Venite ad aiutarmi, Mr. Wakem!» gridò Maggie, piangendo appena udì quei passi desiderati. «Dammi una mano a salire su quel cavallo basso!» disse Wakem a Luke. «E così forse potrò cavarmela, per quanto... Alla malora, credo di avere questo braccio slogato!» Con qualche difficoltà, Wakem fu issato sul cavallo di Tulliver. Allora si volse verso il mugnaio e gli disse con una rabbia verde: «Questa me la pagherete, caro signore! Vostra figlia è testimone che mi avete aggredito!» «Me ne infischio!» disse Mr. Tulliver con voce grossa e irritata. «Andate a mostrare la vostra schiena! E dite che vi ho frustato, dite che ho messo un po' più a posto le cose di questo mondo!» «Il mio cavallo me lo ricondurrai a casa con me», disse Wakem a Luke, «per il traghetto di Tofton, non attraverso la città». «Babbo, vieni in casa», disse Maggie supplichevole. Poi, vedendo che Wakem se n'era andato e che non erano più possibili altre violenze, lasciò la presa e scoppiò in singhiozzi convulsi, mentre la povera Mrs. Tulliver se ne stava là, in silenzio, tremando di spavento. Se non che Maggie si avvide che, di mano in mano che allentava la stretta, il padre andava aggrappandosi e appoggiandosi a lei. La sorpresa troncò i suoi singhiozzi. «Mi sento male. Svengo», egli disse. «Aiutami a tornare a casa, Bessie. Sono stordito. La testa mi duole». Rientrò lentamente, sostenuto dalla moglie e dalla figlia, e s'abbatté barcollando sulla poltrona. Il suo rossore, quasi di porpora, si era mutato in pallore e le sue mani erano fredde. «Non faremo meglio mandare per il medico?» disse Mrs. Tulliver. Tulliver pareva troppo debole e sofferente per udirla, ma poi, quando ella disse a Maggie: «Cerca qualcuno che vada a chiamare il medico», egli alzò lo sguardo verso di lei, comprendendola perfettamente, e disse: «Il medico? No, no, niente medico, è la mia testa, ecco tutto, aiutatemi a coricarmi». Triste fine di quel giorno, che per tutti loro era come un inizio di tempi migliori, ma impura semente, impura messe. Mezz'ora dopo che il padre si era coricato, Tom tornò a casa. Bob Jakin era con lui, venuto a congratularsi col vecchio padrone, non senza un certo perdonabile orgoglio d'aver avuto la sua parte nella buona fortuna di Mr. Tom. E Tom aveva pensato che, per terminare la giornata, nulla sarebbe tornato più gradito al padre che una chiacchierata con Bob. Ma ormai, a Tom, non rimase che trascorrere la sua serata in melanconiche congetture sulle conseguenze che potevano nascere da quel pazzo sfogo di un odio tanto lungamente covato dal babbo. Dopo che gli furono comunicate le tristi notizie, si sedette in silenzio. Non gli bastava l'animo né la voglia di raccontare del pranzo alla mamma e alla sorella, le quali a malapena si interessarono di domandarlo. Evidentemente i vari fili della trama della loro vita erano così curiosamente intrecciati che non poteva esservi gioia per loro senza un dolore che la seguisse dappresso. Tom era avvilito al pensiero che i suoi sforzi esemplari dovevano sempre essere frustrati da errori altrui. Maggie tornava sempre ancora a rivivere, con un vago e tremante presentimento di penose scene a venire, lo strazio del momento in cui si era slanciata a trattenere il braccio del babbo. Nessuno dei tre provava speciali apprensioni per la salute di Mr. Tulliver. I sintomi non ricordavano per nulla il pericoloso attacco di qualche anno prima. Pareva del tutto naturale che la sua violenta collera e quel parossismo di energia, dopo parecchie ore di insolita eccitazione, l'avessero condotto a sentirsi male. Il riposo l'avrebbe probabilmente guarito. Tom, stanco della sua giornata movimentata, fu ben presto colto dal sonno e s'addormentò profondamente. Gli pareva di essersi alzato appena coricato quando si svegliò e vide la mamma in piedi presso di lui nella grigia luce del primo mattino. «Figliolo mio, devi alzarti subito. Ho mandato a chiamare il medico e il babbo ti vuole accanto a sé con Maggie». Sta peggio, mamma. Tutta la notte ha avuto molto mal di testa, ma non parla di sentirsi peggio. Soltanto ha detto d'improvviso: Bessie, chiamami il ragazzo e la bambina. Raccomanda che facciano presto. Maggie e Tom si infilarono in fretta i vestiti in quella fredda luce grigia e giunsero quasi contemporaneamente nella camera del babbo. Egli stava aspettandoli con un'espressione di dolore sulla fronte, ma un'acuta ed ansiosa lucidità negli occhi. Mrs. Tulliver era ai piedi del letto, impaurita e tremante, e il riposo interrotto la faceva apparire stanca e invecchiata. Maggie per prima fu presso al letto, ma gli sguardi del babbo erano rivolti a Tom, che s'accostò, fermandosi vicino a lei. Tom, ragazzo mio, m'hai preso qualcosa da cui non mi rialzerò più. Questa vita è stata troppo forte per me, ragazzo mio. Ma tu hai fatto quel che potevi per rimettere un poco le cose a posto. Stringimi ancora una volta la mano, figliolo, prima che io me ne vada. Il padre e il figlio si strinsero la mano e si guardarono l'un l'altro per un momento. Poi Tom, sforzandosi di parlare con fermezza, disse: Hai qualche desiderio, babbo, a cui io debba adempiere quando... Ah, ragazzo mio, tu devi fare in modo di ricomprare il vecchio mulino. Sì, babbo. E poi c'è la tua mamma. Tu cercherai di risarcirla per quanto potrai della mia mala sorte. E poi c'è questa piccina. Il babbo volse gli occhi verso Maggie con uno sguardo ancora più inquieto, mentre questa, col cuore che le scoppiava, si buttò ginocchioni per essere più vicina a quel caro volto consunto che per tanti anni era stato davanti a lei, che era per lei il segno del suo più profondo affetto e il simbolo della sua più ardua prova. Dovrai avere cura di lei, Tom. Non ti addolorare, mia piccina. Verrà qualcuno che ti amerà e che prenderà le tue parti, e tu sarai buono con lei, ragazzo mio. Io sono stato buono con mia sorella. Abbracciami, Maggie. Vieni, Bessie. Tom, tu procurati i mezzi per farmi una tomba in muratura, in modo che tua madre e io possiamo riposare accanto. Ciò detto, allontanò lo sguardo da loro e rimase in silenzio per qualche minuto, mentre si stavano lì a fissarlo, senza osare di muoversi. La luce del mattino s'era fatta più chiara, essi potevano scorgere la gravezza che s'appesantiva sul volto di lui e l'oscurità che si addensava sui suoi occhi, ma finalmente egli si rivolse a Tom e gli disse: Ho avuto anch'io la mia volta. L'ho picchiato Questo era più che giusto, non ho mai desiderato se non quello che era giusto. Ma babbo, caro babbo, disse Maggie, con una inesprimibile ansia che predominava sul suo dolore, tu li perdoni, tu perdoni a tutti adesso. Egli non mosse gli occhi verso di lei, ma disse, no, piccina, non gli perdono. Perdonagli perché? Non posso amare un farabutto. La sua voce s'era fatta più spessa, ma egli voleva ancora dire qualche cosa e continuava a muovere le labbra, sforzandosi invano di parlare, e alla fine le parole si fecero strada. Perdona Iddio ai farabutti? Ma se perdona, non sarà severo con me. Le sue mani si mossero con fatica, come se gli volesse scostare un ostacolo che pesava su di lui. Due o tre volte gli uscirono delle parole rotte. Questo mondo troppo forte, galantuomo, sconcertante. Ben presto anche queste si dissolsero in un semplice rantolo. Gli occhi avevano cessato di vedere, e allora venne il silenzio finale. Ma non quello della morte. Per un'ora e più il petto si sollevò, la respirazione roca e difficile continuò, facendosi sempre più bassa, mentre dei sudori freddi gli bagnavano la fronte. E finalmente fu la completa immobilità, e l'anima del povero Tulliver, coi suoi confusi lumi, aveva cessato per sempre di essere tormentata dal doloroso enigma di questo mondo. I soccorsi adesso erano giunti. Luke con sua moglie e Mr. Turnbull, arrivato troppo tardi per poter dire altro che è morto. Tom e Maggie scesero insieme al piano di sotto, nella stanza dove il posto del loro babbo era vuoto. I loro occhi si volsero verso lo stesso punto e Maggie disse: Tom, perdonami, vogliamoci bene noi due. E si abbracciarono e piansero insieme.